Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica che credo sia stato un nostro risultato aver impedito. Questa è la dichiarazione, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del ministro Alfano, leader del nuovo centrodestra, una volta diciamo raggiunto l'accordo e quindi poi anche la fiducia sul maxiemendamento al disegno di legge Cirinna, che voi sapete è passato al Senato, ora deve passare anche alla Camera, ma insomma il percorso dovrebbe essere in discesa a questo punto. Quindi dice Alfano: abbiamo vinto noi perché abbiamo evitato questa rivoluzione contro natura. Cosa ne pensate? Io devo pensare che contro natura, secondo me, una cosa sicuramente contro natura è viaggiare in aereo, per esempio, anche se ho viaggiato moltissimo e continuo a viaggiare, devo dire, quando mi trovo a quell'altezza, in questo enorme, in questa enorme struttura di metallo con dentro 300 persone e tutti i loro bagagli, mi chiedo come fa a star su, arriverà almeno a destinazione. Ecco, questo è contro natura. Invece per Alfano diciamo è stata sventata questa, probabilmente qualcuno si può riferire alla stepchild adoption, oppure la questione di fedeltà. Qual era contro natura? Obbligare i gay, le persone omosessuali a essere fedeli? Insomma, diciamo che c'è stato questo stralcio molto particolare dell'obbligo di fedeltà dentro questo disegno di legge. Comunque Renzi parla di vittoria che resterà nella storia, parla di vittoria dell'amore. La senatrice Cirinnà, che dà il nome a questo disegno di legge, la definisce una vittoria col buco nel cuore a causa dello stralcio della stepchild adoption. Alfano, come avete sentito, parla di vittoria che ha impedito una rivoluzione contro natura. Calderoli dice che chi ha votato sì andrà all'inferno. E secondo voi che vittoria è? È una vittoria? E che tipo di vittoria è? 349-238-6666, come sempre lo sapete il numero per gli sms, 349-238-6666, oppure come sempre per voi è sempre lì giorno e notte disponibile la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Quindi voi fate le vostre riflessioni, ne parleremo ampiamente di come è passato questo disegno di legge, di come ne è uscito il governo, di chi è stata effettivamente la vittoria, se effettivamente non c'è più differenza tra cittadini di serie A e di serie B. Intanto, come sempre, prima di entrare nel cuore degli argomenti con gli ospiti, vi riepilogo la giornata. Unioni Civili, via libera al Senato con 173 sì, 71 voti contrari, nessun astenuto. Il disegno di legge Cirinnà ora passa alla Camera. Renzi commenta: una vittoria che resterà nella storia. Alfano indagato dalla Procura di Roma, l'accusa è abuso d'ufficio. Migranti, gelo tra Vienna e Grecia, il governo ellenico avverte: non saremo Libano d'Europa. Il commissario europeo Avramopoulos avverte: 10 giorni per i risultati o sarà il collasso. Amministrative, la candidata dei 5 Stelle Virginia Raggi lancia la sfida per la capitale. Roma, città stuprata, dice: pronti a governare, polemica col Vaticano. L'insegnante uccisa nel torinese, nell'inchiesta per la truffa ai suoi danni c'è un altro indagato, una donna che si finse impiegata di banca per rassicurarla sui suoi soldi. Per il calcio, serata di Europa League, Tafferuglia Roma per Lazio Galatasaray che finisce 3-1 per la Lazio, e poi in campo ora Napoli, Villarreal e Tottenham Fiorentina. Partiamo quindi dal disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, via libera, come dicevo, al Senato con 173 sì, 71 voti contrari, nessuno astenuto. Il provvedimento ora passa alla Camera. Dopo giorni di scontri e polemiche arriva il primo sì alla legge sulle unioni civili in Senato, 173 sì, 71 no, nessun astenuto, mentre il Movimento 5 Stelle non partecipa al voto di fiducia posto dal governo. Una giornata storica per il Paese, twitta il Premier Matteo Renzi, ha vinto l'amore. In aula interviene la prima firmataria, Monica Cirinnà, che commenta così lo stralcio della Step Child Adoption. Sapete comunque che lì l'unica cosa che manca nel maxi emendamento è che è un buco nella legge, un buco in questo Parlamento, un buco nel mio cuore, è lo stralcio dell'articolo 5. Soddisfatto invece Angelino Alfano del nuovo centrodestra. Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica che credo sia stato un nostro risultato aver impedito. Ma lo stralcio delle adozioni e la mancata equiparazione al matrimonio non convincono alcuni dei senatori cattolici. Sacconi, Formigoni e Giovannardi votano comunque no. Ed è polemica proprio sui voti. 18 senatori di ala su 19 votano la fiducia. Senza di loro il governo sarebbe sotto la quota della maggioranza assoluta di 161 e si fermerebbe a 155. Denis Verdini lo ribadisce: siamo fondamentali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Sole 24 Ore Roma. Chi ha vinto allora? Ha vinto davvero l'amore, come dice Renzi, ha vinto Renzi, ha vinto Verdini, Alfano. Come ne esce la maggioranza di governo? Tra poco con un ospite faremo un'analisi approfondita su tutte queste domande. Per quanto riguarda in sintesi invece i punti principali di questo provvedimento, il maxi emendamento che è stato votato è composto da un solo articolo con 69 commi, l'impianto del disegno Cirinna, originario diciamo sostanzialmente invariato, ma si sono aggiunti degli elementi di distinzione tra unioni civili e matrimonio chiesti dal nuovo centrodestra. Queste elementi di distinzione, scompare tra i doveri l'obbligo reciproco alla fedeltà, questa diciamo è la cosa un po' più bislacca, ma restano tutti gli altri obblighi, dall'assistenza morale e materiale alla coabitazione, al dovere di contribuire ai bisogni comuni. Le parti inoltre concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare, fissano la residenza comune, resta anche la possibilità per le parti di assumere un cognome comune. E una notizia che è arrivata poco fa: il ministro dell'interno Alfano è indagato per abuso d'ufficio dalla Procura di Roma. Con Alfano sono indagati anche il viceministro Filippo Bubbico, il suo segretario particolare Ugo Malagnino, l'ex senatore del PD Vladimiro Crisafulli, il presidente dell'Università Cor di Enna Cataldo Salerno. Il reato sarebbe stato commesso il 23 dicembre, giorno in cui il Consiglio dei Ministri approvò il trasferimento ad Isernia dell'allora prefetto di Enna Fernando Guida. Il fascicolo è stato inviato al Tribunale dei Ministri. Poi vediamo se ci sono degli aggiornamenti per capire qualcosa di più. Passiamo intanto all'emergenza immigrazione. Oggi si è tenuto il vertice dei ministri degli interni a Bruxelles dopo le tensioni tra Vienna ed Atene, che al momento non si ammorbidiscono ed emerge tra l'altro un'Europa sempre più in ordine sparso sul tema migranti. Ci occuperemo anche di questo più tardi con Effetto Notte, e domani il presidente della Commissione Europea Juncker sarà a Roma. A Roma per costruire ponti, per discutere insieme di immigrazione, flessibilità, banche, economia, tanta carne al fuoco nella giornata romana di Jean-Claude Juncker, che domani incontrerà nell'ordine il presidente del Senato Grasso, l'ex capo di Stato Napolitano, la presidente della Camera Boldrini, il premier Renzi e per ultimo, alle 16, il presidente della Repubblica Mattarella. Una missione importante anche perché la prima visita di Stato in Italia, la seconda in assoluto nelle vesti di presidente della Commissione dopo Cipro, e che cade proprio in occasione del secondo anniversario del governo Renzi. Di certo l'esecutivo italiano riproporrà le questioni di medio periodo poste già nel cosiddetto position paper presentato dal Ministero dell'Economia inviato qualche giorno fa a Bruxelles, e dove si chiedeva più flessibilità, un superministro delle finanze, il completamento dell'unione bancaria, il rafforzamento di Schengen, mentre fonti della Commissione spiegano che si parlerà anche delle nuove idee del governo italiano, che rispondono all'approccio virtuoso della Commissione, basato su tre pilastri: riforme strutturali, responsabilità di bilancio, ambizioso programma di investimenti. Un incontro assolutamente interlocutorio, tant'è che le stesse fonti precisano: in agenda non c'è nessuna decisione da prendere. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La Siria adesso, per la quale potrebbe slittare la ripresa dei negoziati di pace. Manca poco al cessate il fuoco in Siria, deciso da Obama e Putin e accolto da Assad, e i due paesi stanno dialogando, ha annunciato il governo russo. La deadline è fissata per domani a mezzanotte, le 23 in Italia, dunque le prossime ore saranno molto importanti, ha detto da Ginevra l'inviato ONU De Mistura. Domani sarà un giorno cruciale per la fine delle ostilità, ha spiegato De Mistura, poi l'appello del suo consigliere sulla crisi umanitaria. Solo l'1% degli aiuti è stato consegnato lo scorso anno, ha sottolineato Egeland, mentre 370.000 civili bloccati nelle aree sotto assedio non sono ancora stati raggiunti dai convogli umanitari. La situazione infatti non migliora, i bombardamenti continuano. Fonti parlano di intensi raid aerei russi e governativi intorno a Damasco e a nord di Aleppo. Intanto l'esercito di Assad ha ripreso all'ISIS la cittadina di Qanaser, nodo strategico per il controllo della strada che collega Aleppo al resto del territorio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora all'estero, col rapporto Italians for Darfur, una nuova escalation di violenze emerge da questo rapporto: decine di bombardamenti, 73.000 nuovi sfollati, centinaia di vittime in poco più di 20 giorni, la ripresa degli stupri di massa in Darfur usati come arma di guerra e l'escalation della repressione contro la libertà di stampa in tutto il Sudan. Questi sono i principali punti contenuti appunto in questo annuale rapporto sul Sudan di Italians for Darfur, sulla crisi umanitaria nella regione occidentale sudanese, ormai dimenticata dalla comunità internazionale e le altre aree di conflitto del paese africano. Il resoconto di un anno di violenze e di violazioni di diritti umani è stato illustrato oggi in Senato dalla presidente dell'associazione, la giornalista e attivista per i diritti umani Antonella Napoli. E a questo proposito dei diritti umani, andiamo al caso Regeni. Manifestazioni per Giulio Regeni davanti all'ambasciata egiziana, il governo innervosito da questa nuove versioni del Cairo. Un mese dopo, solo ipotesi, depistaggi e una rabbia crescente tra Italia e Egitto. Un mese dopo, ancora nessuna verità per Giulio Regeni, come invocano invece gli striscioni comparsi sui municipi di molte città e come scandiscono al Cairo centinaia di studenti e a Roma moltissime persone davanti all'ambasciata. Le ipotesi fatte in questi 30 giorni sono fantasiose, persino offensive, altre tendenti a ridimensionare tutto. Incidente, droga, vendetta personale, anche questo si è sentito e si fa portavoce dello sdegno dei genitori di Giulio, Riccardo Nuri di Amnesty International, anima della sit-in davanti alla sede diplomatica egiziana dove poi sono stati ricevuti gli avvocati della famiglia Regeni, e la rabbia per inaccettabili tentativi di dare verità di comodo filtra pure dell'audizione del sottosegretario con delega all'intelligence Marco Minniti. Ma dall'Egitto invece arrivano solo ancora ipotesi: per l'ambasciatore Amr Elmi o è stato un atto criminale o un atto di terrorismo. Così, un mese dopo, restano solo ipotesi e depistaggi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo sulle notizie più strettamente interne dell'Italia con le candidature per Roma. Virginia Raggi, candidata del Movimento 5 Stelle, lancia la sua sfida per la capitale. Sentiamola. Questo appuntamento così importante qui è un po' per provare a rilanciare l'immagine di Roma, che all'estero è stata purtroppo sporcata da queste brutte vicende che hanno infangato la nostra città. E per dirvi che Roma non è solo degrado, non è solo sporcizia e per fortuna non è solo mafia capitale. Anzi, i partiti ci hanno insegnato che mafia capitale è una distorsione del sistema, perché la politica ormai non la fanno più i partiti. I partiti hanno consentito che i mafiosi, la parte marcia di questa società, si sedesse al tavolo e decidesse per noi cittadini. Non è così. La politica a Roma la devono fare i cittadini. La cronaca adesso: c'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la truffa da 187.000 euro ai danni di Gloria Rosbock, l'insegnante di Castellamonte, prima scomparsa e poi trovata a cadavere in una cisterna nei boschi del Canavese. Si tratterebbe della donna, la nuova indagata, che fingendosi impiegata di banca telefonò all'insegnante per convincerla della validità dell'investimento che le aveva proposto Gabriele De Filippi, l'ex allievo in carcere per il suo omicidio. La donna, assistita dal suo avvocato, è stata interrogata oggi in procura di Ivrea, è indagata a piede libero solo nel procedimento penale per la truffa, non per l'omicidio. E parliamo anche di birra tossica. Ci sarebbe del diserbante in 14 marche di birra tedesca, alcune anche molto famose. La sostanza sarebbe cancerogena per alcuni esperti, innocua secondo altri. A rivelarlo un'analisi dell'Istituto per l'Ambiente di Monaco, che ha individuato la presenza di glifosato. Fa veramente male questa sostanza, in Italia corriamo dei rischi. Edoardo Sirignano l'ha chiesto a Giorgio Calabrese, che è il presidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare. È quello dei tumori, un aumento dell'increasing della stimolazione nel tempo, naturalmente non bevendo una birra o comunque non prendendo quel prodotto che potrebbe avere questo glifosato. Dall'altra parte stiamo vedendo, con le ricerche che stiamo facendo, che ad esempio c'è una maggiore sensibilizzazione dei villi intestinali, che si appiattiscono sempre di più, favorendo l'insorgenza di malattie che sono di natura genetica ma che poi fino in fondo molto spesso restano silenti. L'importazione del malto d'orzo potrebbe ampliare il fenomeno? Anche se i tedeschi dicono che hanno un controllo assoluto sulle piante che loro gestiscono o che comunque sui prodotti che importano, certamente il malto d'orzo, se trattato in paesi in cui il rigore non è quello europeo, può creare dei problemi. E adesso per il calcio, abbiamo detto che la Lazio ha portato a casa ben 3 punti col Galatasaray. Per le altre di Europa League, Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Per le altre di Europa League ti dico che da 10 minuti scarsi sono in campo sia Napoli che Fiorentina, entrambe chiamate a un'impresa, perché il Napoli deve rimontare lo 0-1 in Spagna contro il Villarreal, mentre la Fiorentina parte dall'1-1 casalingo del Franchi. Risultati entrambi fermi sullo 0-0, ma sono due belle partite. Napoli, che ha appena avuto una grande occasione con Higuain, che dunque ha scelto di scendere in campo dal primo minuto. C'è un po' di turnover nella squadra di Sarri, ma senza esagerare, i tre davanti sono Higuain, Insigne e Mertens. Una bella occasione, dicevamo, con Higuain, che in questi 10 minuti è già andato al tiro almeno in un paio di occasioni. Villarreal però sempre pericoloso in contropiede, 0-0 risultato. È partita un po' meglio il Tottenham contro la Fiorentina, Tottenham che ha alcune assenze importanti, sta però spingendo in questa prima fase della partita, e Fiorentina che, lo ricordiamo, dovrà vincere a Londra, perché l'1-1 di partenza al Franchi non basta per passare. Dicevi della Lazio, Lazio che invece ha passato il turno, partiva dall'1-1 a Istanbul, ha vinto 3-1 col Galatasaray, i gol di Parolo e Felipe Anderson che sembrano aver messo al sicuro il risultato, poi il break in contropiede di Yassin e nel finale il 3-1 di Klose, dunque la Lazio è la prima italiana qualificata per gli ottavi di finale, ma questa sera proviamo davvero l'in-playing in Europa League. A te Roberta. Grazie Giovanni Capuano, a dopo. Notizia extra è questa, una grave denuncia da parte del giornale francese Le Figaro, inquietanti rivelazioni sui test clinici di un farmaco che lo scorso gennaio hanno portato questi test alla morte di un volontario nel centro ospedaliero universitario di Rennes in Francia. In un'inchiesta pubblicata oggi dal giornale Le Figaro richiama l'attenzione sulle numerose zone d'ombra intorno ai test effettuati nell'ospedale francese dalla società Biotrial. Secondo il quotidiano, 4-5 volontari sopravvissuti soffrono di profonde lesioni del cervello con problemi di coordinamento motorio e l'altra indescrizione riguarda la molecola utilizzata per i test che in passato, sempre rivela Le Figaro, avrebbero già ucciso diversi cani a cui venne somministrata. Il 17 febbraio scorso l'Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza del Farmaco ha detto che il medicinale invece rispondeva a tutte le esigenze, i risultati degli studi condotti sull'animale rispondevano ai prerequisiti imposti e autorizzavano dunque un passaggio ai test sull'uomo. Deplorando il silenzio dell'Agenzia Francese su questo spinoso dossier, Le Figaro annuncia la pubblicazione il mese prossimo di un editoriale sul British Journal of Clinical Pharmacology per denunciare la scarsa trasparenza, e speriamo anche che venga fuori il nome di questo farmaco, di questa molecola così pesantemente indiziata. Direi adesso di prenderci una piccola pausa, di aggiornare chi sta viaggiando, però stanno arrivando già molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche attraverso gli sms al 349-238-6666 a proposito di questo epilogo sul disegno di legge Cirinnà, di chi è stata la vittoria. Anche qualcuno sta commentando quello che ha detto Alfano o altri rappresentanti parlamentari, Alfano che ha detto è stata una vittoria nostra per impedire una rivoluzione contro natura. C'è per esempio sulla pagina Facebook Giovanna che scrive: dico che il vero governante di questo bel paese è il signor Alfano e questa legge è di fatto l'unico compromesso che Renzi e Cattodem potevano accettare. Non dimentichiamo che Renzi era in prima fila al primo Family Day, ricorda Giovanna. Federica dice che tutti i partiti possono andare a quel paese, che ora sono ancora più convinta che non bisogna collaborare con loro ma mandarli tutti a casa, sono falsi e si venderebbero pure la nonna per i loro sporchi interessi, dice, sono schifata. Poi su WhatsApp il PD con Verdini e Alfano sono contro natura. Sandro da Crevalcore scrive questo, e poi contro natura, dice un altro ascoltatore, ascoltare Alfano e le sue dichiarazioni trionfali tutte, voglio votare e rimetterlo al posto che merita. Intanto sentiamo quali sono i aggiornamenti per chi viaggia, ci ritroviamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci insieme, le notizie ve le ricordo tra pochissimo, intanto ancora sui vostri messaggi continuate a mandare tra la pagina Facebook e gli sms al 349-238-6666. A proposito di unioni civili, col via libera al Senato, Renzi, vi dicevo, ha parlato di vittoria che resterà nella storia, la Cirinnà definisce una vittoria col buco nel cuore perché ha dovuto togliere la stepchild adoption, Alfano parla di vittoria che ha impedito una rivoluzione contro natura, Calderoli dice che chi ha votato andrà all'inferno, e secondo voi di chi è stata la vittoria? Effettivamente non esistono più cittadini di serie A e di serie B. Dopo questo epilogo Antonio scrive: li ho ascoltati gli argomentoni di Airola, cioè il senatore del Movimento 5 Stelle, il quale non sapeva come giustificare la viscida piroetta impostagli dalla Casaleggio Associati, moralmente putridi e politicamente inaffidabili, dice Antonio. Poi Veil scrive: la solita legge all'italiana, cioè monca, due cose, dice, niente obbligo di fedeltà come viene richiesto nei matrimoni e poi niente adozione dei figli, si aprirà la strada alle richieste tramite magistrature e ricorsi vari che verranno giustamente accolte, dice l'ascoltatrice sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ma vi ricordo adesso, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Per l'appunto il primo sì alle unioni civili al Senato, Verdini anche vota la fiducia, Renzi dice è stato un giorno storico, vince l'amore. Gelo per i migranti tra Vienna e Grecia, non saremo, dice la Grecia, il Libano d'Europa, e il commissario europeo Avramopoulos avverte, abbiamo 10 giorni per i risultati altrimenti ci sarà il collasso. La ministra Pinotti nega un intervento militare in Libia di cui si è vociferato in questi giorni, e poi Virginia Raggi, candidata del Movimento 5 Stelle, lancia la sfida a Roma, dice, città stuprata, pronti a governare. E poi è stato trovato un diserbante, vi dicevo, in 14 marche di birra, alcune famose in Germania, esperti divisi sui possibili effetti sulla salute. E poi le partite di Europa League, guerriglia urbana a Roma per la partita Lazio-Galatasaray, la Lazio ha vinto 3-1 e poi sono in campo Napoli e Fiorentina. Dunque, dopo mesi di tormentate discussioni, di travagli, mal di pancia, insulti, speranze, proteste, mediazioni, scontri, compromessi, accuse reciproche e anche figure barbine, la legge sugli unioni civili, come avete sentito, è passata con la fiducia al Senato, poi deve passare alla Camera, ma insomma, visti i numeri, dovrebbe essere più in discesa il percorso. Sono stati stralciati la stepchild adoption e anche questo obbligo di fedeltà, che ha fatto sorridere molti, ha creato anche variegate ironie da parte di qualcuno, cioè c'è la licenza di corna, ci si chiede, da parte delle persone dello stesso sesso, oppure anche amarezza da altri che dicono: ma questo leva un profondo valore simbolico alla coppia dello stesso sesso, perché è la fedeltà, lo stare insieme, che giustifica il fatto di stare insieme. Però, per darvi il senso di questa giornata ultimativa di passione, diciamo, vi faccio sentire una serie di voci dal Senato. Chiedo un po' di pazienza anche a Lina Palmerini, editorialista politica del Sole 24 Ore. Ciao Lina. Ciao, buonasera. Faccio sentire, giusto per dare il senso della giornata, un po' di voci di oggi. Allora, incominciamo prima dall'annuncio di Grasso, presidente del Senato. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.10.000 interamente sostitutivo del disegno di legge numero 2081, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Senatori presenti 245, senatori votanti 244, maggioranza 123, senatori favorevoli 173, contrari 71, senatori astenuti 0. Il Senato approva. Questo è l'annuncio. Intanto la senatrice Cirinnà, che ha dato il nome a questo disegno di legge, si è detta soddisfatta da una parte, anche se con questo buco nel cuore, dice, ma rammaricata contro il Movimento 5 Stelle, che con lo scontro, vi ricordate, che si è consumato settimana scorsa col PD, avrebbe costretto, secondo la Cirinnà, la maggioranza PD a questo compromesso col nuovo centrodestra. Sentiamola. Nessuno, ripeto nessuno, si sarebbe aspettato che l'alleato che più urlava fedeltà nei confronti dell'impianto del testo spingesse nel cratere del vulcano un grande momento della storia repubblicana, che avrebbe visto partecipi forze parlamentari anche lontanissime tra di loro. E adesso, a proposito appunto di questo rammarico sul fatto che è stata stralciata la stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare all'interno della coppia dello stesso sesso il figlio biologico dell'altro. Sapete comunque che lì l'unica cosa che manca nel maxi emendamento è che è un buco nella legge, un buco in questo Parlamento, un buco nel mio cuore, è lo stralcio dell'articolo 5. Cosa risponde però alle accuse del Movimento contro il Movimento 5 Stelle da parte anche della Cirinnà del PD, la senatrice Catalfo del Movimento 5 Stelle? Sentiamola. Ciò che si celebra oggi nell'Aula del Senato non sono né le unioni civili né le coppie di fatto, ma un vero e proprio matrimonio tra il Partito Democratico e Denis Verdini, fondato questo sì sulla fedeltà e sull'obbedienza di massonica memoria, in cui lo stesso Verdini pretenderà gli alimenti e Alfano l'assegno di mantenimento. Sempre da parte del Movimento 5 Stelle, dice la sua anche il senatore Airola. Avete tolto l'obbligo della fedeltà, quindi avete reso libere le corna. State attenti, perché questo invece sì, questo sì è troppo simile al matrimonio, e poi magari potrebbe risultare incostituzionale, come tutta questa schifezza che state per approvare. Andate a fanculo. Senatore, non le consento il linguaggio volgare in aula. Ciao, molto laconico. Anche la senatrice De Petris di SEL accusa il Movimento 5 Stelle e insieme però anche il PD. Il Movimento 5 Stelle si è assunto una grande responsabilità e con la sua scelta ha offerto sul piatto d'argento al Partito Democratico l'alibi per concludere un accordo a ribasso con chi sin dall'inizio ha lavorato per abbattere questa legge, a chi non ha perso occasione per offendere, insultare e cercare di umiliare tutte le persone interessate. E adesso la dichiarazione di Alfano, che ha fatto molto discutere. Ha vinto il buon senso, perché è assolutamente di buon senso dare più diritto ai soggetti anche dello stesso sesso che compongono una coppia, una unione. Al tempo stesso l'istituto giuridico del matrimonio è ben distinto da quello dell'unione ed è stato un bel regalo all'Italia avere impedito che due persone dello stesso sesso, cui lo impedisce la natura, avessero la possibilità di avere un figlio. Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica che credo sia stato un nostro risultato aver impedito. Quindi Alfano vittorioso di aver impedito questa rivoluzione contro natura. Calderoli della Lega parla anche di inferno per chi ha votato sì. E davanti a un voto che questa volta sarà palese, perché io ero convinto, nel segreto dell'urna Dio vi vede e Zanda e Renzi no, e qualcosa avrebbe potuto uscire. Questa volta vi fanno passare di lì. Tutti quelli che dicono sì quest'oggi vanno all'inferno. Non ci sono santi, per tabulas. Come all'inferno, probabilmente ci finirà anche Renzi. Evocato anche l'inverno, insomma, inferno. Lina Palmerini, allora, Renzi dice una vittoria che resterà nella storia, la vittoria dell'amore. La senatrice Cirinà dice una vittoria col buco nel cuore. Alfano dice una vittoria che ha impedito una rivoluzione contro natura. Calderoli, l'hai sentito, una vittoria che porterà chi ha votato sì all'inferno. Il Movimento 5 Stelle dice una vittoria che sancisce l'unione, il matrimonio tra PD e Denis Verdini. Qual è il tuo commento? Ma sicuramente direi una vittoria, perché fino ad oggi noi non abbiamo una legge che ci mette al pari con gli altri paesi, quindi ci sono dei diritti negati, per i quali siamo stati anche condannati dall'Europa, quindi era una legge necessaria. Sicuramente si è arrivati al traguardo attraverso delle forzature, anche tanti errori. Anche tante marce indietro, ha dovuto fare marce indietro Renzi perché alla fine ha dovuto stralciare le adozioni, ma io dico hanno fatto marce indietro anche Grillini, perché improvvisamente Grillo una domenica mi pare ha annunciato la libertà di coscienza proprio sulle adozioni civili. Parzialmente una marcia indietro ha fatto anche il partito di Alfano. Ci si chiede perché. Allora, la marcia indietro di Renzi è semplicissima e dipende dai numeri in Senato, quindi lui aveva bisogno o del 5 Stelle o appunto di un accordo dentro il perimetro della maggioranza con il nuovo centrodestra. Il voltafaccia dei Grillini è stato ampiamente spiegato dai giornali, una questione di sondaggi, nel senso che come è venuto fuori da colloqui tra Grillini e tra l'altro un nostro collaboratore Dalimonte, esperto di indagini politiche e sondaggi, ha visto che l'elettorato dei 5 Stelle non era favorevole all'adozione, quindi è arrivata la libertà di coscienza. Da lì è cambiato completamente lo schema di gioco. Purtroppo il PD non se n'è reso immediatamente conto, quindi ha insistito ancora un po' fino alla scorsa settimana, e lì poi invece con il no al super canguro del 5 Stelle si è capito che quella non poteva essere una sponda politica, quindi che bisognava cercare i voti con il nuovo centrodestra e stralciare l'adozione del figliastro. Quindi insomma una vittoria, perché la legge arriva al traguardo, sia pure priva di una parte. Ma secondo me nessuno dei partiti può dichiarare una vittoria piena. Senti, a proposito invece, Lina, del fatto che si accusa il PD di aver fatto il matrimonio, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, con Verdini, l'ala di Verdini, no? E Verdini stesso ha detto in serata: noi abbiamo dato un contributo essenziale per la vittoria di questa legge. Allora, contributo essenziale io non so cosa intenda Verdini, onestamente, non è stato determinante, nel senso che il voto di fiducia sarebbe passato anche senza i 18 voti dei senatori verdiniani. Sicuramente ci si interroga su cosa voglia dire questo segnale, cioè un conto è votare un provvedimento, un conto è un voto di fiducia, politicamente c'è un salto logico. Al momento quello che io vedo, che capisco, è che Verdini sta diventando una specie di, come posso dire, di guardiaspalle del governo Renzi, nel senso che lui entra in gioco ogni volta che c'è una qualche difficoltà, o a sinistra, per esempio con la minoranza del PD, era accaduto sulle riforme costituzionali, o magari nel centrodestra, cioè agisce da deterrente per chi voglia fare agguati o buttare giù il governo. Quindi questo è un po' il suo ruolo. che cosa comporti come effetto politico, cioè quali scambi, quali trattative politiche intendo, insomma quale sia il beneficio lo vedo, i costi politici li vedremo. Lina, per chiudere quindi questo voto, a parte il dare una legge, anche se appunto per certi versi diciamo un po' depauperata, è servito anche a rinsaldare quindi la maggioranza di governo di Nuovo Centrodestra? Direi che in questa rinsaldare no. Io direi se c'è un partito che non vuole le elezioni subito, questo è il partito di Alfano, quindi io non vedevo un rischio, diciamo, per il governo. Sicuramente Alfano ha tirato il più possibile la corda e devo dire anche stamattina con quella dichiarazione sulle unioni contro natura, insomma, eccessiva, ma perché? Perché Alfano ha fatto una sua battaglia identitaria, nel senso che nel governo Renzi non si capisce bene quale sia il profilo politico dell'NCD. Quindi, insomma, questa delle unioni civili e dell'adozione diventava una bandiera che li identificava, li rendeva visibili, quindi hanno fatto politica, ecco. Lina Palmerini, grazie per il tuo commento, prego, la tua analisi. Prego. Grazie, buona serata. Prego. Ciao Lina. Commentatrice politica del Sole 24 Ore. Stavo guardando intanto che il presidente degli avvocati matrimonialisti italiani, Gianetto Regassani, ha detto comunque che da una lettura attenta del disegno di legge Cirinnà si evince che le unioni civili sono un vero e proprio matrimonio. Se dobbiamo tutelare, dice, i diritti civili di tutti, non possiamo poi fare un testo di legge per cui l'obbligo di fedeltà sia considerato qualcosa di secondario. Dice sempre Regassani, la fedeltà coniugale resta un caposaldo nella misura in cui c'è l'accordo sull'esclusività del coniuge anche dal punto di vista sessuale. Questo dice il presidente degli avvocati matrimonialisti. Ancora qualche vostro messaggio. Vela sulla pagina Facebook di Effetto Note dice: non so se Alfano e Calderoli pensano davvero le assurdità che dicono o fanno certe dichiarazioni solo per attirare il voto dei cattolici, in ogni caso si dimostrano dei bigotti ottusi e ignoranti. Dice Anselmo: sono favorevole a questa legge perché finalmente si dà una risposta alla Santa Chiesa Cattolica e Romana Apostolica, si apre una porta, anche se non è la porta santa, è comunque un passo avanti, piuttosto che niente è meglio piuttosto. E poi Daniele da Sondrio agli sms al 349-238-6666 scrive: la vittoria del medioevo culturale e mentale dal quale l'Italia non riesce a staccarsi. Ci sentiamo un momento. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte siete naturalmente al posto giusto, al momento giusto, con la conduttrice giusta anche Roberta Giordano, e state scrivendo nei luoghi giusti, deputati, i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che gli sms al 349-238-6666, anche qualche WhatsApp, ma li leggo raramente perché vi dico che arrivano piccoli. E per esempio questo dice: il PD con Verdini Alfano, ma questo l'avevo già letto, è contro natura. E poi un altro messaggio che dice: non ha vinto Alfano, hanno vinto il buonsenso. Se c'era una legge sulla quale bisognava secondo me chiedere il parere degli italiani, vediamo se si apre, immagino appunto, ecco, questa legge appunto che è passata per il momento in Senato e poi alla Camera, ma dovrebbe andare abbastanza liscia. E poi Monica dice: Roberta, la vittoria è nostra, che speriamo non si parli più di questa legge, adoro la tua trasmissione. Come darle torto del resto a Monica. Poi Matteo scrive: uno dei momenti più oscuri e vergognosi della nostra storia, la vita di persone normali in mano a dei folli. Dice a proposito dell'epilogo sul disegno di legge Cirinnà, Matteo. E poi invece Lorenzo da Roma scrive: purtroppo il Parlamento italiano e di conseguenza il governo sono completamente staccati dalla realtà sociale italiana, non hanno il coraggio di veri provvedimenti. Contro natura sono coloro che non capiscono ancora che gli omosessuali sono persone che amano, che sanno amare anche i più limitati di cervello, che fanno provvedimenti, dice, dovrebbero saperlo, fanno pena. Così scrive Roberto. E poi ancora i vostri messaggi. Enza sulla pagina Facebook: vittoria solo politica a seconda del proprio elettorato, tanto che se ne se ne gravano dei gay i politici, cioè se ne importano probabilmente di Cenza, con un termine particolare. Maurizia, noi sudditi di questo governo invece andremo in paradiso dopo tanta sopportazione, a proposito dell'inferno evocato da Calderoli. Walter scrive: sono 3 mesi che ci frantumiamo i cosiddetti e solo per avere più voti, che ci frantumano i cosiddetti per avere più voti. Allora, mentre continuate con le vostre riflessioni, i vostri messaggi, vi ricordo quali sono le notizie più importanti e poi passiamo a un altro argomento. Unioni Civili, per l'appunto, via libera al Senato con 173 sì, 71 voti contrari, nessuno astenuto. Il disegno di legge Cirinnà ora passa alla Camera. Renzi commenta: una vittoria che resterà nella storia. Alfano indagato dalla Procura di Roma, l'accusa è abuso d'ufficio. Migranti, gelo tra Vienna e Grecia, il governo ellenico avverte: non saremo il Libano d'Europa. Il commissario europeo Avramopoulos avverte: abbiamo 10 giorni per i risultati o sarà il collasso, ne parleremo tra pochissimo. Per le amministrative, la candidata dei 5 Stelle Virginia Raggi lancia la sfida per la capitale. Roma dice: città stuprata, siamo pronti a governare. E poi l'insegnante uccisa nel Torinese. Nell'inchiesta per la truffa ai suoi danni c'è un altro indagato, una donna che si finse impiegata di banca per rassicurarla sui suoi soldi. Vi aggiorno anche che per quanto riguarda l'Europa League, Napoli per il momento 1-0 su Villarreal. Ma andiamo su cose molto importanti, molto ponderose: l'emergenza immigrazione. A Bruxelles oggi si è tenuto il vertice dei ministri degli interni, un vertice ad alta tensione dopo quello che c'è stato a Vienna, di vertice tra i paesi favorevoli alla limitazione degli arrivi di migranti. Sapete che Vienna da qualche tempo ha detto: vogliamo mettere un tetto sia ai richiedenti asilo che arrivano nel nostro paese, sia anche solo quelli che transitano attraverso l'Austria. Nel frattempo la Grecia ha richiamato il proprio ambasciatore a Vienna, una mossa diplomatica molto pesante questa, per non essere stata invitata la Grecia a un vertice che la riguardava molto da vicino, e attacca: non accetteremo, dice la Grecia, di diventare il Libano d'Europa, di diventare un magazzino di anime, cioè di ricevere milioni di migranti e di rifugiati perché gli altri mettono dei muri o dei tetti. Sulla vicenda si scontrano essenzialmente due posizioni opposte, quelle dei cosiddetti falchi, buona parte dei paesi dell'est Europa che non vogliono più nessun migrante a casa loro, e quello dei paesi del sud Europa che, come la Grecia, non vogliono le barriere interne al ricollocamento dei migranti. E bisognerà trovare un compromesso. Per il momento mi sembra abbastanza in alto mare la situazione. La Commissione Europea interviene sul referendum intanto ungherese, perché anche l'Ungheria ha detto che vuol fare un referendum sulla possibilità di chiudere ai migranti. Intanto il commissario europeo Avramopoulos dice: non possiamo mettere dei tetti sull'accoglienza dei richiedenti asilo, questo non è possibile per le regole europee e internazionali. Ha ricordato che tutti gli stati membri, tutti devono rispettare e applicare le regole. Dice: abbiamo ancora pochi giorni, altrimenti siamo al collasso. Antonio Villafranca, responsabile del programma Europa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Mi pare un avvertimento abbastanza inquietante questo del commissario europeo. Ma guardi, è assolutamente inquietante. Credo che il rischio sia veramente quello di perdere il controllo. Perdere il controllo, perché quello che sta passando è che, non essendoci una soluzione europea in vista, ognuno fa da sé. Ognuno fa da sé vuol dire che in questo momento, ad esempio mentre parliamo, ci sono 2000 persone che da un campo profughi al nord di Salonicco si stanno dirigendo verso il confine della Macedonia, sperando di poterlo superare. Macedonia che nel frattempo ha chiuso la sua frontiera ovest, nord-ovest, per impedire ai migranti che vengono dall'Afghanistan di arrivare. Questa è una situazione assolutamente inaccettabile ed è il momento di essere veramente solidali con la Grecia, soprattutto per un paese come l'Italia. Noi siamo, come la Grecia, un paese in cui arrivano i migranti, siamo un paese di primo arrivo. Se tutti gli altri paesi chiudono le loro frontiere, ovviamente per l'Italia e per la Grecia la situazione rischia di diventare assolutamente insostenibile, e soprattutto per la Grecia rischia di diventarlo nel giro veramente di pochi giorni o di comunque poche settimane. Però, Antonio Villafranca, non mi sembra che ci siano al momento i presupposti per trovare davvero una via di compromesso. Se ne parla ormai da tanti, tanti mesi, no? Ci sono stati vertici su vertici, però mi pare che la situazione, forse, magari mi sbaglio, sia anche un po' peggiorata rispetto a paesi che intendono alzare muri o mettere tetti. La situazione è decisamente peggiorata, e questa è la cosa veramente preoccupante. E credo che adesso non ci sia più neanche la questione di capire quali possano essere le soluzioni. Ormai è da più di un anno che si parla di soluzioni, tutti sanno benissimo quali sono le soluzioni, degli accordi ci sono stati, gli hotspot per riconoscere i migranti, la creazione di una sorta di guardia costiera europea, il ricollocamento ovviamente verso gli altri paesi, le soluzioni ci sono, è il momento di porsi casomai delle domande, non tanto di trovare delle risposte, cioè perché non riusciamo a trovare una politica migratoria comune in Europa rispetto a dei flussi che, ricordiamoli, sono assolutamente ingenti, sono notevoli, ma che possono assolutamente essere gestiti dall'Unione Europea. Noi abbiamo i mezzi finanziari e abbiamo le risorse umane per gestire un flusso di questo genere. In questo momento c'è un paese come il Libano in cui c'è un rifugiato ogni 4 abitanti. Ed è proprio quello che ti diceva la Grecia, non vogliamo diventare il nuovo Libano, no? Ma ha perfettamente ragione. Quello che è successo ieri in Austria è assolutamente inaccettabile. Il governo austriaco ha convocato questa riunione, questo summit di governanti dei Balcani occidentali, escludendo non solo la Grecia volontariamente, proprio l'ha voluta escludere, ma assolutamente addirittura non invitando neanche nessun esponente delle istituzioni comunitarie, nessun esponente ad esempio della Commissione europea, che dovrebbe essere quella che gestisce quantomeno il coordinamento di questi flussi di migranti. Ed è un segnale assolutamente negativo e preoccupante. Antonio Villafranca, per chiudere, tra 10 giorni si dovrebbe tenere il vertice tra Unione Europea e Turchia, dal quale ci si attende una forte riduzione dei flussi, ma anche lì non so, no? Anche la posizione della Turchia sempre ambigua, come sempre, su tanti fronti. Guarda, su questo sarei anche molto sincero, nel senso che noi stiamo promettendo più di 3 miliardi di euro alla Turchia essenzialmente perché non siamo in grado di gestire la questione. 3 miliardi sono veramente tantissimi soldi, ma siccome ormai anche in giro per l'Europa, per molti partiti politici di nuova e di vecchia formazione, quello dei migranti è diventata, mi passo il termine, la gallina delle uova d'oro in termini di voti che si possono acquisire, allora si preferisce addirittura dare 3 miliardi alla Grecia per creare una sorta di tappo, sempre che la Grecia ovviamente poi ci riesca, piuttosto che trovare un accordo in Europa. Questo veramente è un segnale negativissimo, perché l'Europa si fonda sulla solidarietà. Se non c'è solidarietà, veramente mi chiedo quale Europa ci possa essere. E questo continuiamo a ripetercelo. Grazie Antonio Villafranca dell'ISPI. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Prima di lasciarci, prima della viabilità, poi ci ritorniamo insieme, dice questo ascoltatore, potevano prendere le regole del matrimonio e applicarle ai gay, tra parentesi fatta eccezione del matrimonio in chiesa. Un altro scrive, ora gli uomo hanno più diritti degli sposati etero, non è giusto. Se è un diritto in più quello di non avere l'obbligo della fedeltà, ognuno lo vede dal proprio punto di vista, insomma, a parte che anche gli sposati etero, non è che proprio abbiamo questo vincolo inossidabile, indissolubile. E poi invece un altro messaggio di Fabio al 349-238-6666, ma siete sicuri che gli italiani sarebbero d'accordo col disegno di legge Cirinna e l'adozione per le coppie gay? Io ho i miei dubbi, ma i sondaggi sono già stati fatti sui diversi punti. E un altro ascoltatore scrive, una legge odiosa che legalizza il caos, mi auguro che possa essere censurata al più presto dalla Corte Costituzionale. Ci sentiamo al più presto. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre qui, Roberta Giordano con voi, sino alle 22, continuano i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Stavo leggendo il messaggio di Manuela che dice, spiacente ma sono profondamente contraria a questa legge, non so perché, non perché sono omofoba, credo fermamente che tutti, e dico tutti, debbano avere il diritto di potersi sposare, uomini con uomini, donne con donne, uomini con donne. Sono contraria alle unioni di fatto, perché chi non vuole assumersi responsabilità del matrimonio non deve nemmeno esigere i diritti. Quindi ancora una visione diversa, un punto di vista diverso questo di Manuela, dice che tutti dovrebbero sposarsi col matrimonio, che è più vincolante e non ci dovrebbe essere bisogno invece delle unioni civili, dice. Però Manuela, questo è stato un primo passo, tanti anche persone dello stesso sesso vorrebbero sposarsi con i vincoli del matrimonio, però non è stato reso possibile, visto che cancan che è stato fatto. E poi invece gli altri messaggi li stavo guardando anche sulla pagina, sul 349 238 6666. Enza, no, questo l'ho già letto, quello di Enza. Piazza Walter dice sono 3 mesi, anche questo qui, Maurizia, noi sudditi di questo governo invece andremo in paradiso dopo tanta sopportazione, mi si stanno mescolando un po' tutti i messaggi. Marius, gli italiani hanno espresso la contrarietà alle adozioni per le coppie di fatto quando sono scesi in piazza, perché ci sono ancora inutili polemiche, anche se diciamolo una volta per tutte, questa legge sulle adozioni, questo stepchild adoption, in realtà intanto molti pensano ancora che sia adottare i bambini negli orfanotrofi ed è difficilissimo per tutti e sarebbe già stata una cosa molto positiva renderla più semplice anche per le persone single. In realtà questa stepchild adoption c'era prima nel disegno di legge per garantire i bambini che ci sono già, ce ne sono già diversi, si parla di 100.000 bambini di coppie dello stesso sesso in Italia, e anche per quelli che ci saranno, perché anche se non c'è la stepchild adoption continueranno a esserci altri bambini. La questione era solo: vogliamo tutelarli quelli che ci sono e che ci saranno comunque, o ci sono e ci saranno ma non li tuteliamo? Era un po' questa la questione. Il PD però dice stiamo già preparando un disegno di legge a parte su questo aspetto. Adesso però vi ricordo, se avete acceso la radio ora invece che puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. C'è stato il primo sì alle unioni civili al Senato e sulla fiducia. Verdini vota appunto la fiducia con il suo gruppo ALA, dice di essere stato decisivo. Renzi commenta: è stato un giorno storico, vince l'amore. Gelo sui migranti tra Vienna e Grecia, ne abbiamo appena parlato. La Grecia che dice non saremo il Libano d'Europa. Intanto il commissario europeo Avramopoulos commenta: abbiamo 10 giorni per avere dei risultati, altrimenti sarà il collasso sull'emergenza immigrazione. La ministra della difesa Pinotti che nega un intervento militare in Libia che si è ventilato in questi giorni. E Virginia Raggi, la candidata del Movimento 5 Stelle, lancia la sua sfida per la capitale. Roma stuprata, dice pronti a governare. E poi per quanto riguarda l'Europa League abbiamo visto la Lazio che ha battuto 3-1 il Galatasaray, Napoli contro il Villarreal 1-0 per il momento, mentre Fiorentina perde 0-1 contro il Tottenham. E siamo all'appuntamento con gli USON, la rubrica che propone questo dialogo tra elettori e rappresentanti europei, e vi ricordo sempre che sul sito di Radio 24 poi potete trovare contatti elettronici per contattare questi europarlamentari e conoscere meglio il loro lavoro. USON, incontro con gli europarlamentari. Nome: Mara. Cognome: Bizzotto. Età: 43 anni. Nata: Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Eletta in Collegio Nord-Est. Con quanti voti? Oltre 45.000. Partito politico? Lega Nord. Gruppo politico? ENF, Europa delle Nazioni e delle Libertà. Segni particolari? Orgogliosamente veneta e milanista. Quante lingue parla? 3. Competenze europee in 10 parole? Lavoro, imprese, tutela del made in e del nostro agroalimentare, lotta all'immigrazione clandestina, Europa dei popoli, abolizione del canone RAI. Benvenuta nella USON di Radio 24 da Silvia Bernardi. L'Austria, al pari di altri paesi europei, decide di chiudere le frontiere all'arrivo di nuovi immigrati. Colpa dell'Europa, dice. I singoli stati non stanno facendo ancora meno? Fa sicuramente bene l'Austria a chiudere le frontiere e a sospendere Schengen. Quindi quale tipo di gestione suggerisce? Beh, basterebbe copiare il modello della civilissima Australia, dove non entra nessun immigrato irregolare. Le leggi sono chiare, rigorose e vengono fatte rispettare da qualunque governo, sia di destra che di sinistra. In Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento Europeo si sta discutendo sui fondi europei riservati ai disoccupati per dirottarli ai migranti. Qual è l'esito? Purtroppo è andata male, perché una parte importante dei soldi destinati ai nostri disoccupati finirà invece agli extracomunitari. In Europa ci sono 25 milioni di disoccupati, in Italia più di 3 milioni, soprattutto giovani. Vogliamo pensare ai nostri disoccupati e non sempre agli ultimi arrivati? Qualche giorno fa è stata al centro della polemica sul pomodoro San Marzano. Per la Commissione si può coltivare ovunque. Lobby contro coltivatori locali? Ogni anno il falso made in Italia fa perdere al nostro paese 60 miliardi di euro. Contro la cooperativa e la contraffazione servono normative chiare e severe. Faccia a faccia con Juncker per 30 secondi di libertà di parola. Gli chiederei di dire la verità, tutta la verità, sullo scandalo che nel 2013 lo ha costretto a dimettersi da premier del Lussemburgo. E poi dovrebbe spiegarmi perché il suo Lussemburgo ha concesso accordi fiscali scandalosi a centinaia di multinazionali per non pagare le tasse. A cena con la Le Pen o George Clooney? Beh, insomma, con George Clooney, e credo che sia chiaro anche il perché. È stata il migliore europarlamentare italiano per numero di attività e produttività per 3 anni di fila. È Wonder Woman o è fattibile? Beh, quando ami la tua terra e conosci i problemi della tua gente, trovi l'energia, hai la passione, la forza che serve per combattere e non mollare mai. Come spiegherebbe l'Europa ad un bambino? Al bambino direi, l'Unione Europea è quella istituzione che decide anche cosa dobbiamo mangiare. Lo sai che qualche anno fa l'Europa voleva proibire la vendita della Nutella? E oggi l'Europa vorrebbe farci mangiare insetti, cavallette e larve. Beh, sono sicura che il bambino direbbe, beh, che schifo questa Europa! U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso invece trasferiamoci nei campi di calcio con Giovanni Capuano, Europa League. Ci sono ancora due italiane in gara, non abbiamo ancora raggiunto Capuano, va bene, appena ce l'abbiamo me lo dite. Intanto io vado ancora sui vostri messaggi. Angela, questa sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice: hanno fatto le unioni civili per coppie di vedovi che vogliono mantenere la pensione di reversibilità e se possibile acquisire una seconda. Angela, scusami se lo dico con tanta franchezza, hai capito pochissimo, anzi nulla, di tutto questo tormentato iter di questo disegno di legge, di tutti i litigati, i compromessi, le mediazioni. Angela, niente di tutto questo, devo dirti. E poi, con tutto il rispetto, però ancora leggevo con l'ascoltatrice Laura che dice: Alfano e Calderoli hanno già il loro posto prenotato all'inferno. A proposito di Calderoli, che diceva, che evocava l'inferno. Poi Roberta dice: Enrico, questo è un paese che morirà democristiano. Simone scrive: Alfano si vanta per aver impedito adozioni, per aver creato distinzioni tra unione e matrimonio, ma alla fine ha votato una legge per le unioni gay. L'obbligo di fedeltà è un assurdo giuridico anche tra eterosessuali, andrebbe abolito. Per carità, può essere anche considerato contro natura effettivamente anche l'obbligo alla fedeltà. Però l'importante è stare in una coppia consapevoli di quello che si vuole, o un rapporto esclusivo o siamo liberi tutti e due. L'importante è andare d'accordo su questo. Ci risentiamo alle 22:00.